Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Allora, da qualche giorno mi sentite ripetere la novità che coinvolge il sito di Radio 24. È sempre lo stesso il sito radio24.it, ma è completamente rinnovato. È molto più facile avere accesso alle nostre trasmissioni, scaricare online immediatamente o quasi, comunque via podcast, tutte le puntate di tutte le trasmissioni che vi interessano. C'è anche un nuovo motore di ricerca, insomma un sito, diciamo così, più interattivo. Nel riferimento, nel profilo del mio programma troverete anche il mio blog, ormai lo conoscete, è Guardie o Ladri, è il mio blog che compare anche sul Sole 24 Ore online, essendo, come molti di voi sapranno, un inviato del Sole. Ho il mio spazio in questo blog dove affronto temi di legalità e criminalità organizzata, le mie grandi passioni, ahimè. Vi do l'ultima informazione di servizio, che è quella che è servita anche al nostro radioascoltatore, ora lo sentiremo subito, per segnalarci una cosa molto molto curiosa. Allora, la mail è unabusoalgiorno@radio24.it. Allora, dicevo, una cosa curiosa che ci ha segnalato un radioascoltatore di Milano, Gianfranco Porcelli. Buongiorno Porcelli. Buongiorno Galullo. Allora, perdonate se sorrido, non è per mancanza di rispetto nei confronti dell'istituto che viene chiamato in causa, ma perché in Italia accadono delle cose stranissime e inseguirle tutte è praticamente impossibile. E quando mi imbatto in queste curiosità, che poi sono anche, come dire, degli ostacoli burocratici di non poco conto, oltre che economici, nei confronti dei cittadini, rido per non piangere, diciamo. Allora, dottor Porcelli, faccia presente la sua denuncia, che è davvero molto molto curiosa. Ma comincerei dal titolo che ho dato alla mia mail. Non è forse un vero e proprio abuso, però mi è sembrato strano cercare di fare il versamento per la mia colf all'INPS all'inizio del mese di gennaio, cercare di farlo online e di scoprire che è possibile. Tra l'altro ho trovato anche esattamente preparato, predisposto l'importo che dovevo versare e così via, cioè un sito che non mi ha creato particolari problemi. Il punto è che nel momento in cui ho chiesto di pagare, non avendo carte postali o altri mezzi, di pagare con la normale carta di credito, ho scoperto che mi sarebbe costato, mi pare, 5,39 euro, adesso non sono precisissimo, non ho davanti a me l'importo, ma mi pare che sia una cifra. Sì, glielo confermo, è quello che lei ha segnato, ecco. 5,39. Mentre andando alla posta si paga quell'euro 20, si paga tra l'altro con la stessa identica carta, perché poi così ho fatto. E la cosa curiosa è che alla posta il lavoro lo fa l'impiegata e quindi io mobilito una persona. Online il lavoro l'avrei fatto io, ma perché devo pagare molto di più un lavoro che in realtà faccio io, sia pure su naturalmente un software predisposto da chi è interessato a ricevere queste cose? Certo. La cosa mi aveva incuriosita e naturalmente, tra l'altro, se mi fosse stato evitato di andare alla posta, a parte il minor disagio mio, ma anche le poste stesse, che hanno moltissime cose da fare, sono sovraffollate, avrebbero forse qualche vantaggio dalla possibilità di dare ai clienti dell'INPS, ai contribuenti INPS, una possibilità di fare altrimenti. Io sono uno di quelli che adopera molto anche la banca online e quindi mi sarei aspettato di trovare ad esempio un codice IBAN che mi avrebbe enormemente facilitato la cosa. Allora, la denuncia è chiarissima, lei giustamente dice non so se si tratta di un abuso. Secondo me è un abuso alla pazienza e all'intelligenza, nei confronti dell'intelligenza di una persona. Sono sicurissimo che ci saranno mille cavilli, mille norme, mille discipline che rendono legittimo quello che lei ha denunciato. Ciò non toglie che pagare 5 volte tanto collegandosi in rete, io lo trovo una cosa francamente ridicola, non ho altri termini, anzi ne avrei di peggiori, ma sicuramente non è questa la sede per esprimerli. Sentiamo dalla viva voce dell'INPS e dal suo ufficio stampa, dal capo quindi delle relazioni stampa, Marco Barbieri, che cosa accade e perché se si paga online il costo è 5,39. Se si rega le poste per regolarizzare il contributo della Colf, il bollettino costa soltanto 1,20 euro. Prego Barbieri. Buongiorno, innanzitutto buongiorno a lei. A lei e all'ascoltatore. Come ha correttamente detto l'ascoltatore, si tratta fondamentalmente di un problema, se fosse così, o di un abuso, come dice lei, che riguarda le poste e non l'INPS, nel senso che la riscossione dei contributi delle Colf può avvenire con una serie di modalità diverse, dopo le riassumo rapidamente. Una di queste modalità riguarda appunto Poste Italiane, che sono autorizzate dall'INPS alla riscossione del contributo, con modalità che Poste Italiane, tramite una convenzione che era sottoscritta con l'INPS, gestisce. Quindi la convenzione con le poste prevede la possibilità di pagare il contributo all'ufficio postale e le poste applicano appunto la commissione nota di euro e qualche cosa. Ecco, la sì. Stessa convenzione tra l'INPS e le poste consente, cioè è la piattaforma che consente il pagamento del contributo online tramite il sito INPS, per cui noi, l'INPS non incassa in questo caso denaro, così come non lo incassa direttamente all'ufficio postale, non lo incassa direttamente tramite il sito. Il sito è una piattaforma che trasferisce la transazione sulla piattaforma delle poste. Le poste italiane hanno a loro volta un rapporti interbancari diversi, per cui se uno paga online tramite il Banco Posta si vede addebitata l'operazione a un euro, se paga tramite carta di credito abilitata dalla piattaforma Poste, che è accessibile tramite il sito INPS, si vede addebitato un onere che varia in relazione. Sì, ma questo l'abbiamo detto. Allora Barbieri, io infatti ho premesso, siccome mi aspettavo una risposta di questo tipo, cioè assolutamente in linea con quello che è lo scaricabarile delle amministrazioni italiane, sono stato io il primo a dire che sicuramente c'era un cavillo legale, una norma, una disciplina, una convenzione, un atto amministrativo, chi più ne ha più ne metta. Allora è facile dire la colpa di Poste Italiane, Barbieri, sicuramente sentiremo Poste Italiane, perché in Italia è sempre facile dare la colpa a qualcun altro. Allora, se così è e noi sentiremo Poste Italiane, le chiedo, allora il vostro sito informa il povero navigatore su internet che quella stessa operazione gli costa 5 volte tanto che non recarsi inutilmente ad uno sportello per ingolfare di fila un ufficio postale, e quindi questa trasparenza voi la date? Assolutamente sì, ma non è uno scaricabarile, però ci tengo a ribadirlo. Se uno si collega al nostro sito, ai pagamenti online dei contributi, vedrà che è possibile e viene indirizzato a quella serie di possibilità per pagare, che sono, tra l'altro c'è un'ulteriore modalità che è quella delle reti amiche, per cui si può pagare il contributo anche tramite le tabaccherie collegate con l'automatica, che hanno una diversa remunerazione, si trattengono una diversa remunerazione, per cui sul sito è indicato l'interlocutore dell'incasso, e ovviamente per quanto riguarda Poste Italiane noi indichiamo l'importo a titolo di costo dell'operazione, è variabile. Va bene, adesso lo sentiremo la risposta del nostro radioascoltatore. Barbieri, le faccio una domanda di logica, una risposta velocissima perché siamo in conclusione, ma lei tutto questo Da giornalista, da collega, pare logico che lavorando su internet si paghi 5 volte tanto che non andare a piedi in un ufficio postale? Ma anche se uno paga le tasse su Taxtel paga di sì, no, ma le dico, ma le sembra logico? È logico, ma il problema è di chi incassa. L'INPS non incassa denaro. Ma io non ho detto che incassa l'INPS, ho detto se le pare logico, a me pare illogico. Comunque, sentiamo il nostro radioascoltatore. Allora, mi pare che su un punto bisogna fare chiarezza. Lei ha trovato le differenze modalità di pagamento e i costi diversi? Sicuramente sì, nel senso che Quando sono arrivato al momento del pagamento, mi era stato indicato, cioè, chiaro, mi sono astenuto dallo scegliere quella modalità di pagamento quando ho visto che costava. Ho visto che c'erano altre modalità che allora in quel momento per me non erano praticabili, perché c'era una scadenza il giorno 10, se io queste cose le faccio il giorno 6, perché mi metto sempre avanti, però non mi bastano quei pochissimi giorni. Comunque è chiaro il caso. Del resto lei ha denunciato una stranezza. Sono stato il primo a dire che avremmo sicuramente trovato una piattaforma legale che autorizza questo. Siamo nel campo delle opinioni, nel mondo della telematica, in cui con un click si fa tutto, e questo viene spacciato per un risparmio assoluto per le pubbliche amministrazioni, per le imprese e per quant'altro. C'è chi trova logico che si abbia un costo superiore e c'è chi, come il sottoscritto, invece lo trova assolutamente illogico. Ringrazio per la sua cortesia e gentilezza Marco Barbieri, capo ufficio stampa dell'INPS, e il nostro radioascoltatore Gianfranco Porcelli da Milano, così come faccio con Pietro Lacorte in regia ed Elisabetta Fusconi in studio. Da Roberto Galullo, una buona giornata.